dues I pay. No future. Vado a mettere le bombe. Va bene che non sputo sulle vostre tombe. Lotto con me, per primo. Ogni uomo ha un motivo per svegliarsi il mattino e mettersi in cammino. Mi muovo, nella notte piena e faccio al cielo. E cresce il desiderio, cresce il desiderio e il veleno. Davanti le vetrine dell'impero, canne mosse in mano e ti prendono sul serio. Ancora un giorno passa, a cascia di denaro. Non rido a essere trattato come schiavo. Il mio vestito è nuovo, ma resto il bastardo che ero. Senso dello Stato uguale zero. In alto la mia banda, in alto la mia banda. In alto la banda, di fronte a tanta merda. Vedi com'è poetica questa faccenda. In alto la mia banda, in alto la mia banda. In alto la banda, di fronte a tanta merda. Lezione prima in Goia, seconda ancora in Goia. C'è sempre un motivo per andare in paranoia. Se vuoi morire muori, niente di male. Per quanto mi riguarda, sono accanito a vivere a volare. 10 anni di storia spingo ancora. Rappresenta assalti frontali prima ora. Questo non è il mondo dei pari. E faccio paragoni per capire perché non viviamo da uguali. Ora basta, troppe canne, cattiveria ci vuole. Spingo il mio valore, niente rassegnazione. Un terminale muore in prigione. Per l'illusione che nessuno provi più a rubare. Mi hanno interrotto i sogni, bandito. Mi muovo coi fratelli, un occhio all'immediato, uno all'... Bene, ciao di nuovo a tutti e tutte. Qui da Radio Onda Rossa siamo Dario e Arianna che vi parla per la trasmissione Sapienza Clandestina. Oggi, come argomenti per voi, abbiamo scelto di parlarvi di innanzitutto quello che accadrà domani 30 ottobre all'interno dell'Università dell'Ateneo della Sapienza, perché ci sarà finalmente il passaggio di potere tra l'ormai quasi ex rettore Luigi Frati e il futuro rettore Eugenio Gaudio. Che cosa succede? Che Gaudio, come ben sappiamo, dei 6 candidati a futuro rettore, quest'anno era il favorito di Frati e era in lizza con altri, appunto, con altri 6 candidati. All'ultimo ballottaggio, con l'altro candidato invece del Dipartimento di Fisica, Ruocco ha ottenuto all'incirca il 59,9% dei voti. Ricordiamoci che comunque questi voti vengono dati non dall'interezza e dalla completezza degli studenti e dei docenti, ma soltanto da un piccolo pugno di rappresentanti degli uni e degli altri, oltre che del Senato accademico e dell'amministrazione. E dunque Gaudio, come abbiamo ripetuto tante volte, si pone assolutamente in linea con le politiche portate avanti negli ultimi 7 anni dal uno dei pessimi e dei peggiori rettori mai avuti alla Sapienza, ovvero Luigi Frati. Era il suo delfino dei 6 candidati e fa parte non a caso della lobby di medicina di cui faceva parte anche Frati. E domani, appunto, 30 ottobre, ci sarà questo incontro ufficiale, questa celebrazione all'interno dell'edificio del rettorato della Sapienza per stabilire questo passaggio di potere. Ovviamente noi faremo sentire la nostra voce in concomitanza ai discorsi di addio di Frati e di presentazione di Gaudio che avverranno all'interno del rettorato all'incirca alle 11:30. Noi avremo un appuntamento, un concentramento all'infuori del rettorato, ovvero alla Minerva alle 11, ripeto, alla Minerva alle 11, tutti e tutte per far sentire la nostra voce con microfono aperto, facendo una specie di conferenza stampa che poi verrà prolungata con una serie di azioni e di attività all'interno dell'Ateneo. Inoltre vi parleremo oggi più nello specifico di quello che è avvenuto nel resto d'Italia nelle ultime settimane, anzi proprio nell'ultima settimana. Faremo una diretta con una compagna di Pisa che ci racconterà dell'occupazione del lunedì scorso del Residence delle Benedettine. Parleremo di quello che è avvenuto il 24 ottobre, quando a Livorno i compagni del laboratorio Sky e degli studenti universitari livornesi hanno occupato uno spazio che era di proprietà del comune, facendolo diventare libreria popolare e aula studio. Inoltre quello che è successo il giorno dopo, il 25 ottobre a Cagliari, quando è stata occupata la facoltà di lettere e filosofia dopo una mobilitazione di studenti e non solo. Inoltre Dario, che ieri ha sentito un nostro compagno su Skype dal Messico, ci racconterà un po' della situazione che sta avvenendo lì, delle mobilitazioni, insomma del panico che si sta creando a partire da quello che è successo il mese scorso. E ora andiamo con un po' di musica e ci rivediamo fra pochissimo. Sì, partiamo con un po' di musica. Questa la dedichiamo al rettore Frati, uscente dalla Sapienza, e sicuramente anche a Gaudio, il nostro nuovo rettore. Lo vogliamo intanto dalla radio salutare così. Chiudo, credono che sono scemo, ma qui non ci sono casi per nessuno. Gli rispondo con un vaffanculo, un grosso vaffanculo, un grosso vaffanculo, un grosso vaffanculo, un grosso vaffanculo, un grosso vaffanculo, un grosso vaffanculo, un grosso vaffanculo, un grosso vaffanculo. Adesso basta, la gente sta fuori di testa, anni di cazzate in TV, ha perso la vista. L'ombra che processa se stessa, si dà la soluzione a chi protesta, lo punisce con la repressione, dando la caccia ai figli disobbedienti. Il match è una e pochi dubbi sui vincenti, poi tanti discorsi commoventi, un sorriso a tutti i denti, freddo come il sangue dei serpenti. Tutti americani quando serve, incerti fra la camicia nera e quella verde. Merde, sa lei che è un'indecenza, a male, altro che alleanza è un'arroganza nazionale. La libertà se fa quello che cazzo gli pare, la dignità solo a chi se la può comprare. Porto i miei passi lontano da chi dice massi, sti cazzi anche se qui piovono massi. Come cazzo siete messi? Basta la faccia di uno scemo sopra i manifesti a farvi tutti quanti fessi. Un megalomane col trip delle crociate, lo votate, fate rate. Accesso negato, la città è nel blackout. Aiuto, mi risponde con un passo e chiudo. Credono che sono scemo, ma qui non ci sono cazzi per nessuno. E gli rispondo con un vaffanculo. Accesso negato, la città è nel blackout. Aiuto, mi risponde con un passo e chiudo. Credono che sono scemo, ma qui non ci sono cazzi per nessuno. E gli rispondo con un vaffanculo. Un grosso vaffanculo. Colle del Fomento. Non è che l'inizio, non è ascoltato nulla, non è che un indizio. Bene, questo era il grosso vaffanculo di Sapienza Clandestina all'uscente rettore Frati, all'entrante rettore Gaudio. Infatti vi ricordo, come dicevo prima, qui dalle frequenze libere di Radio Onda Rossa, che domani studenti e studentesse si concentreranno alle 11 del mattino sotto la Minerva alla Fontana per il microfono aperto, una sorta di conferenza stampa in concomitanza al saluto dell'uscente rettore Frati e al discorso di inaugurazione del prossimo rettore, che sarà rettore per i prossimi 6 anni, Gaudio, all'interno del rettorato. Ovviamente questa sarà una giornata che non si completerà nel semplice microfono aperto e nelle discussioni che ci faremo lì alla Minerva, ma sarà una giornata di mobilitazione importantissima in cui studenti e studentesse faranno sentire la loro voce all'interno dell'Ateneo. Questo perché? Perché per chiunque entrasse nella Sapienza in questo momento, proprio in questi giorni, non soltanto studenti ma anche uno che ci entri per la prima volta, noterà e avrà di fronte come panorama quello di un'università fortemente colpita innanzitutto dalle privatizzazioni e dalle esternalizzazioni. Ricordo che in questi giorni, proprio da 2 settimane, sono spuntate davanti ai 2 corridoi di Edera che costeggiano da un lato chimica e dall'altro fisica 4 enormi cartelloni pubblicitari che pubblicizzano un film commerciale sui vampiri. Oppure chiunque venisse durante la settimana a farsi una passeggiata nella Sapienza, di fronte al Pratone, sempre più di frequente, oramai una volta a settimana, compaiono questi chioschi e questi banchetti fatiscenti che vendono e sponsorizzano cellulari piuttosto che macchine, piuttosto che beni di consumo, che all'interno di un'università pubblica, insomma, non è accettabile una cosa del genere. Vogliono trasformare, e non mi stupirebbe che lo facessero in tempi brevi, ovviamente con le nostre contestazioni e con tutti i problemi che li possiamo creare, questa università pubblica nell'ennesimo centro commerciale di una Roma vetrina proiettata verso l'Europa, come sogliono dire. Insomma, poi ricordo che nel discorso celebrativo, il primo che fece Gaudio quando venne per la prima volta nominato, la parola che più ricorse all'interno di la più ricorrente all'interno di questo discorso era Europa, un'università proiettata verso l'Europa. E questo, vabbè, ovviamente ci rimanda a tutti i discorsi che a livello di macropolitica i nostri governi fanno ogni giorno, e quindi questo nuovo rettore si pone assolutamente in linea con queste politiche, però non solo di privatizzazione, di esternalizzazione, ma che portano avanti anche tutto il discorso del merito, che poi trova concretamente una sua formula nel progetto di riforma che sta portando avanti Renzi nella buona scuola. Il fatto che durante questi 7 anni di governo Frati si è entrata più e più volte la polizia anche in assetto piuttosto aggressivo all'interno dell'università, il fatto che il reddito, quindi l'ISEE, quindi le tasse che devono pagare gli studenti sono sempre più alte e restringono sempre di più il campo degli studenti che poi di fatto possono avere veramente accesso a questa a questa università pubblica e o semipubblica ormai, per non parlare poi del discorso degli alloggi che anche i compagni di Pisa con cui faremo la diretta ci specificheranno, del diritto allo studio. Aspettiamo con ansia, ora a novembre dovrebbero uscire graduatorie della Lazio di ISO su proprio chi quest'anno potrà entrare, ovviamente in minima percentuale, al diritto allo studio, quindi ad avere un alloggio degli idonei non vincitori. E inoltre volevo un attimo aprire una parentesi su un articolo molto interessante che mi è capitato di leggere ieri sera e che ci riguarda molto da vicino per quanto riguarda l'ambito universitario. E questo articolo diceva che proprio nel comma 29esimo dell'articolo 28 della legge di stabilità è stata inserita tempo fa durante insomma le prime leggi, le prime mosse che faceva Renzi, una postilla di poche righe proprio al centro della legge di stabilità che parla dell'università. E ora vi racconto un po' che danno apporta questo comma 29esimo dell'articolo 28 a noi universitari, in particolare al campo dei ricercatori. E come forse molti di voi sapranno, esistono questi punti organico che sono una sorta di punteggi in percentuale, l'1,3, lo 0,7, dipende dalla posizione insomma che un docente assume all'interno dell'ateneo, che determinano il numero, quindi il tipo, la qualità di docenti di ciascun ateneo, che sono assegnati direttamente dal MIUR, quindi dal Ministero. All'interno di questa selezione vi sono due tipi di docenti che in realtà corrispondono a dei ricercatori precari, che sono chiamati il tipo A, ovvero il tapino, e il tipo B, ovvero il deluxe, ai quali corrispondono dei punti rispettivamente di 0,5 e 0,7. Quando poi finisce il contratto, piuttosto che il docente vada in pensione, questi punti vengono ridati al dipartimento, quindi ai docenti ordinari, a quelli che fanno parte dei docenti strutturati e fissi all'interno dell'ateneo, che poi li dovranno ridistribuire eventualmente, questo assolutamente in teoria, per assumere nuovi docenti e nuovi precari. Che cosa vuole fare Renzi nella legge di stabilità? Vuole eliminare questa figura del ricercatore tapino, che sarebbe, scusate, deluxe, ovvero quello che poi potrebbe gareggiare per diventare docente associato e poi docente ordinario, quindi per averci un contratto a tempo indeterminato, e vuole lasciare solo la categoria del tapino, che è quello che dopo 5 anni finisce il suo contratto e senza possibilità di rinnovarlo. Quindi questo era soltanto un altro annuncio che vi volevo fare su come le politiche di Renzi vogliono rendere sempre più precario il lavoro dei docenti all'interno delle università. Adesso ci ascoltiamo un altro po' di musica e poi Dario ci racconterà del Messico. Ci

alla stampa e alle cronache per essere legata a un clan di narcotrafficanti della regione di Guerrero, i Guerrero Narcos, e il sindaco Abarca, suo marito, per evitare una contestazione alla moglie e appunto anche di carattere, diciamo, di carattere contro le speculazioni che, come qui in Italia, avvengono anche in Messico nelle regioni rurali, ha deciso di far intervenire la polizia municipale della città, che non è proprio come la nostra polizia municipale di Roma, ma ha sicuramente un armamento e una forza differente, e ha fatto appunto caricare gli studenti nella città, ha fatto partire ronde per la città e 43 di questi studenti sono spariti. Nella stessa giornata, quando l'esercito è intervenuto subito dopo e ha bloccato i pullman, ha addirittura aperto il fuoco e sono morti 3 studenti sempre quel giorno, il 27 settembre, e 3 turisti, possiamo così definirli, quantomeno persone che si trovavano su questo pullman di compagni messicani che non erano legati alla mobilitazione, ma che hanno perso anch'essi la vita. Oltre a queste 6 vittime, adesso facciamo i conti con il fatto che questi 43 ragazzi non sono ancora stati ritrovati. All'inizio, all'interno del movimento messicano, che vista la dimensione di Città del Messico, che ricordiamo conta è la città più grande al mondo, o comunque la più abitata al mondo, che conta 22 milioni di abitanti, è un'università da 340.000 studenti, e non si sono fatte pressioni per la liberazione di questi ragazzi, non immaginando che fossero scomparsi, ed oggi li danno per deceduti. Quindi già nella manifestazione del 2 ottobre, che è proprio quella manifestazione per cui i ragazzi di Guerrero dell'Università Rurale si erano impegnati a raccogliere fondi, ci fu una manifestazione che fu pacifica e che si sviluppò per le vie di Città del Messico senza particolari tafferulli, chiedendo la libertà per i compagni e le compagne che erano state arrestati. Ma già nei giorni successivi, poiché non pervenivano notizie di questo arresto, si creò una situazione di particolare tensione nella regione di Guerrero, che intanto, per fare un po' di storia, è una regione ad alta popolazione indigena e quindi che ha una tradizione di resistenza forte, e l'Università Rural Social, e in particolare appunto già dagli anni 70, è famosa all'interno del movimento messicano e quindi famosa anche alle istituzioni repressive per essere un'università feconda di movimento, e che da anni prova a costruire un'università sicuramente differente, ma anche un sistema differente in Messico. Dal 2 ottobre appunto la situazione inizia a degenerare, gruppi armati che si trovano nella zona di Guerrero, in particolare magonisti, quindi si rifanno a Flores Magón, stanno producendo dei video, dei filmati, dei comunicati in cui invitano la cittadinanza a prendere le armi, a ribellarsi e a attuare dei blocchi sulle grandi strade messicane. E a seguire, già dalla seconda mobilitazione, quella dell'8 ottobre, che è stata indetta appositamente per chiedere informazioni al governo Nieto su quanto era successo a questi 43 studenti. Innanzitutto le istituzioni dello Stato di Guerrero, e il governatore si è dovuto dimettere, 27 soldati sono stati arrestati, e il sindaco Abarca, di cui parlavamo prima, appunto sindaco della città di Iguala, dove è successo il fatto, è latitante insieme alla moglie, e la cosa più sconcertante